La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле еле. Cati Colosimo mi scrive su Facebook che mi legge da quando teneva una rubrica sul settimanale Amica. Le ho anche scritto una volta e la sua risposta, non sul giornale, arrivò al mio domicilio a mezzo posta. Grazie Cati, non sai che piacere ritrovare attraverso la tua lettera le tracce di un atto gentile compiuto nella notte dei tempi. Quando sarò scaraventata all'inferno per le mie omissioni, questa sarà la mia cipollina, la citiamo sempre. La storia che si trova nei Karamazov, della vecchia cattiva che viene mandata all'inferno e non ha mai fatto niente di buono, salvo si ricorda di una buona azione. Rivendica che una volta diede a un povero una cipollina. E allora San Pietro dall'alto cala una cipollina e la vecchia si aggrappa. Ecco, quel giorno io mi aggrapperò alla lettera con francobollo che ti mandai tanti anni fa e tu ti potresti invece aggrappare a questa email e così, anche se per il rotto della cuffia, saliremo insieme in paradiso. Poi c'è Lidia Cardi, che conosco almeno epistolarmente da molto tempo, e la quale mi scrive: prima o poi sarei costretta a leggerlo, il mio libro. Chissà in quale scaffale o sedia lo hai lasciato, e dire che ti osserva silenzioso come può essere solo chi sa che avrà un suo momento. Lì, tra quelle pagine, troveresti me e te. Troveresti la crudeltà e la potenza dell'amore. Tu mi leggerai. Non lo devi a me, ma all'amore. Beh, insomma, una lettera affettuosa, anche parecchio minacciosa. E questa tua lettera, Lidia, aggiunge un altro rimorso alla mia biblioteca, che mi guarda dai muri e mi ricatta. Memento mori. Quanto tempo ti resta per leggerci tutti? E tra queste vocine, la più acuta e la più decisa è quella del libro di Lidia Cardi. Spero di sentirla distintamente presto. Ti saluto con timore. La guardiana del faro. Adesso vi leggo una lettera che non ho ricevuto a Radio 24. Mi è stata mandata al settimanale A, dove curo una rubrica intitolata Le verità sull'amore. Ecco la lettera. Ho 70 anni. C'è un amico del quale sono sempre stata innamorata. Anche per questo sono rimasta single, pur avendo avuto altre storie. L'anno scorso la moglie, più giovane, lo ha lasciato e lui si è aggrappato a me. Io facevo volentieri da salvagente, ma si è innamorato, sì, come un ragazzo. Mi sento ridicola. Ottenere adesso ciò che desideravo a 30 anni, ormai che... E io rispondo, ormai niente. Se c'è un momento in cui le vecchie si possono montare la testa, è questo. Dopo aver letto Piangi pure di Lidia Ravera, pubblicato da Bompiani. Almeno io me la sono montata, per la naturalezza incantevole con cui vi si racconta l'amore fra una donna di 79 anni e un uomo di 76, senza eludere il dolore. Lui è malato. Il suo tempo sta per finire. Ma si sono incontrati due maestri dell'istante e il loro gioco ha la magnificenza della semplicità. È un libro fatto di verità profonde, spietate, ironiche, e te lo consiglio per la scrittura che è un abbraccio, per la nobile follia, il lieto strazio con cui i due amanti sanno prendersi l'ultimo pezzetto di cielo. Piangi pure di Lidia Ravera è un libro di speranza, un'idea rivoluzionaria su come affrontare la morte. E certo bisogna sentire per poterselo permettere. Quando morì Moravia, scrissi Vecchio fortunato, è morto innamorato a 82 anni. Credo che non ci sia fortuna più grande. E vi ho letto questa lettera perché è l'argomento di oggi, il libro di Lidia Ravera, Piangi pure. Lidia Ravera ci ha fatto altre volte visita al faro. Una volta quando ci vendicò di quegli uomini brutti, magari rattoppati come cappotti con le cuciture in vista, che si erano messi a dar pagelle alle donne. E nel libro Piccoli Uomini li esaminò trattandoli come loro trattano noi. No, no, un momento, con umorismo, con garbo, lasciando la volgarità tutta a loro. E poi venne a parlarci di Stromboli, la sua isola, dove viveva libera come un tonno per 8 mesi all'anno. E ci disse che stava lì per ignorare il tempo, per non sentirlo passare in quel luogo immutevole. Poi è venuto a parlarci della gita al Faro, il festival della letteratura a Ventotene organizzato con le Turbine, e nel frattempo ha accettato di diventare assessore alla cultura alla Regione Lazio. Beh, finalmente una bella notizia, perché qui non si fa che parlare di rinnovamento, di merito, di trasparenza, e poi rispuntano sempre le stesse facce agghiaccianti, opacissime, e si vedono affidare incarichi politici importanti a dei nomi che fanno tremare. Lidia Ravera alla cultura, per me, è una delle poche cose rassicuranti che siano successe. E direi una specie di miracolo da noi oggi, che si occupi di cultura qualcuno che sa cos'è la cultura e sa che non è un fiore all'occhiello, che non è una cosa astratta. Lidia Ravera sa che la cultura è importante come l'aria, che è l'aria, è il respiro, è il tessuto della vita. Ecco, finalmente qualcuno che ha una visione e che non mette se stesso al centro dell'universo. Oh, lei poi come donna mi piace anche perché è cavalleresca con gli uomini e con le donne, e poi perché è spiritosa, e senza questo la sapienza non conta niente. Chi pensa senza umorismo, pensa senza pietà. Ecco, Lidia Ravera si sta arrampicando agilmente per le scale del faro. Lidia, buongiorno. Buongiorno. Ti abbiamo fatto un arco di trionfo prima che tu arrivassi. E abbiamo parlato di Piangi pure, il tuo ultimo libro pubblicato da Bompiani. Sono molto contenta di parlare di questo libro che ho negletto, poverino, che è uscito il 20 di marzo, esattamente il giorno in cui mi è arrivata la telefonata di Nicola Zingaretti che mi delegava a occuparmi della cultura nella Regione Lazio. Impresa titanica, entusiasmante, faticosissima, eccetera, eccetera, eccetera. Però anche bella, perché poi per una che per tutta la vita ha raccontato storie, ha scritto romanzi, misurarsi con la realtà è sommamente igienico ed educativo. C'è una spaventosa vischiosità del reale, ma è bene conoscerla anche a fini narrativi. Il prossimo romanzo sarà molto meno sognante. E quindi anche il libro te lo sei dimenticato, naturalmente, come tutto il resto. Mi è piovuta addosso una responsabilità enorme, anche perché io, avendo una sparsa massaia, di cui peraltro vado fiera, ho coi debiti un rapporto appunto da massaia virtuosa. Penso che uno non li deve avere, che se li ha li deve onorare. Quindi, insomma, per la prima volta nella mia vita ho dovuto prendere dei sonniferi. Ah, perché non riesci a dormire con questo? Beh, sento la responsabilità. Maneggiare soldi pubblici, denaro pubblico, per me è una responsabilità enorme, perché sono i soldi dei cittadini. Il denaro pubblico non è una strana carta moneta di nuovo conio. Il denaro pubblico vuol dire i soldi dei cittadini. E quindi io mi pongo il problema che essi abbiano qualcosa in cambio, quindi di farli fruttare, di rendere la cultura accessibile, tanta, di dare a tutti la possibilità di consumarla, ma anche di produrla, di accendere proprio delle luci davanti a qualsiasi palcoscenico abborracciato, qualsiasi garage. Cioè voglio andare a frugare la Regione Lazio e scoprire quanta gente vorrebbe misurarsi con la produzione teatrale, cinematografica, vorrebbe fare festival, scrivere poesie, fare installazioni, quadri. Ecco, dare a tutti una possibilità di farsi vedere e di andare avanti, perché finché non cominci hai la sensazione sempre di essere un velleitario. Invece quando qualcuno ti dà una mano, riesci a esprimerti ma anche comunicare agli altri, allora le cose cambiano. Io sono sicura che ci sono dei tesori nascosti, soprattutto nelle giovani generazioni di cui tutti parlano. Comunque senti, noi adesso ti vogliamo riportare al romanzo. Che lusso. È la storia di questi due vicini di casa. Carlo, che all'inizio viene chiamato con discrezione C, è uno psicanalista, ha 76 anni, e per Iris, questa signora di 79, è un compagno di aperitivi. Loro si vedono sempre al bar davanti alla casa in cui lei abita, e lui ha lo studio dove riceve. È un accenno ironico e giocondo al film Casablanca, e invece del pianista Cupido c'è Omar, il barista arabo, che un po' è anche lui un Cupido. E Carlo, che nel romanzo a questo punto è ancora cipuntato, non si fa vedere da un po', E quando torna dice sono malato, non dice sono stato malato. E Iris dice Omar diceva che eri scappato con una ragazza. E lui, guardando anche Omar, che lo sappiano tutti, dice la mia ragazza è Iris, ha detto lui. Ha pagato il caffè e mi ha preso per il gomito. Mi sentivo felice, imbarazzata, stupita. Le tre sensazioni si sono riassunte in una mollezza alle gambe. Mentre attraversavamo la strada, lontano sia dalle strisce pedonali che dal semaforo, come lui fa d'abitudine, e io accetto per non fare la figura dell'anziana paurosa, il suo cellulare ha emesso una specie di barrito metallico. Era un messaggio. Si è messo a leggerlo, come se fossimo già sul marciapiede. Una macchina stava per investirlo. Lo giuro, sul mio apparato percettivo non era un effetto dell'ansia. Ho gridato, attento! E mi sono buttata davanti a lui per affrontare io, vigile e attenta, al paraurti con cui avrebbe impattato lui, inconsapevole, mentre digitava il messaggio di risposta. La macchina ha frenato, una voce rozzamente romanesca ha gridato «A nonna, stai a dormire?» Ci mi ha presa sotto braccio. Tremavo leggermente, un po' di paura, un po' di rabbia. Quando sento il disprezzo degli altri, mi succede. «Ti sei spaventata?» mi ha chiesto C davanti al portone. No, ho mentito, poi ho aggiunto. E che fiuto le bestie giovani. La loro aggressività. Hanno vite così miserabili. Cercano di sentirsi superiori dove possono. Avere meno anni addosso, avere più anni davanti. Se non ci fosse ogni tanto una vecchia a ricordargli che non è il più sfigato del pianeta, qualcuno finirebbe per impiccarsi. È la funzione principale del razzismo, ha detto C. Iris, come dicevo, ha 79 anni. Ed è leggera come un passero, ha un corpo flessibile, probabilmente ha fatto yoga o altre discipline utili tutta la vita, ma è comunque sull'orlo degli 80, con tutte le paure che ne conseguono. È stata sposata con un compagno di partito quando erano tutti e due militanti del PC e hanno avuto una figlia, Alice. Poi Iris ha fatto quello che si chiama il colpo di testa. Si è innamorata di un altro e, scandalizzando marito e partito, se n'è andata con lui. Poi è tornata dal marito. Però non era già più un vero matrimonio. Lei in cuor suo è diventata una singola e anche se sta con lui, diciamo che rimane una singola accompagnata. Alla fine ha aperto una libreria in un'isola, guarda caso, per lasciare il marito senza separarsi. Lui poi si risposa con una vedova polacca che presto diventa la sua infermiera perché lui è gravemente malato e bisognoso di cure costanti. Quando mi presentò Alina, la vedova polacca, fu grezzo, burbero, quasi maleducato. Questa è la donnetta mediocre a cui mi hai consegnato. Guarda dove mi hanno portato le tue intemperanze di carattere, i tuoi abbandoni, le tue fughe. Non disse niente di simile, naturalmente, ma lo pensò e io me ne accorsi. Conoscere i più riposti pensieri del coniuge è l'elemento che rende vischioso e tutto sommato indecente qualsiasi matrimonio. Alina era una placida bellezza bionda con il viso quasi perfettamente tondo, la bocca a forma di cuore e un sodo strato di grasso color burro a nascondere qualsiasi spigolo del corpo. Si muoveva lentamente, dolcemente, come se a ogni passo rischiasse di debordare da se stessa. La guardavi e pensavi, questa ragazza non ha lo scheletro, si regge perché l'hai appena tolta dal frigorifero. Iris chiude la sua libreria nell'isola e torna in città e quando la incontriamo ha fatto un altro colpo di testa. Ha venduto, senza dirlo né alla figlia né alla nipote, la casa, la nuda proprietà, con sé dentro. Un atto atroce, un contratto miserabilmente faustiano, che la condanna ad avere i nuovi proprietari che fanno voti per la sua morte e diventano degli iettatori implacabili che torvamente misurano quanto lei sia ancora agile e giovanile. E indimenticabili personaggi dei due figli degli acquirenti che hanno comprato la casa appunto per loro. Due giovani sposi, poco dotati, ambiziosi e ringhiosi, Debbie e il marito, che sognano solo di spedirla alla tomba e provano addirittura truffaldinamente a mandarla in un ospizio per occupare la casa subito. Ma l'attività più importante di Iris al momento è prendere il caffè col professore. Che nome dare a questo sentimento 80 anni? Ma quello di sempre. Iris si è innamorata. Lui, sposato con una sua allieva, molto più giovane, un po' dello stampo della polacca, un'altra di quelle che vogliono far solo le infermiere. Lui è malato e proprio questo lo decide a vivere questa storia con atti di piccola audacia da entrambe le parti, che poi è un'audacia immensa perché rovescia la vita. La giovane moglie non si spiega la forza di questo legame e chiede a Iris, ma perché lui non può fare a meno di te? e lei con somma civetteria, apparteniamo alla stessa era geologica, ma è una risposta beffarda. E l'appartenenza dell'amore è comunque arcana, e di sicuro c'è solo che loro due sono ben decisi a stare insieme finché lui vivrà. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. Continuiamo col libro di Lidia Ravera, Piangi pure, pubblicato da Bompiani. È la storia di Iris, 79 anni, innamorata, corrisposta, di Carlo, 76. C'è con noi anche l'autrice Lidia Ravera. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Ho trovato molto interessante come Lidia Ravera parla della vecchiaia di questa donna e che cosa Iris pensa del proprio corpo. Quando incontra la figlia, Alice, una vera artista quando si tratta di provocare sensi di colpa e che le è veramente antipatica, ecco cosa pensa quando si abbracciano. I miei seni e i suoi seni cozzano ogni volta che ci abbracciamo. I miei si sono ridotti, i suoi sono ancora abbastanza tondi e pieni. Ma il brindisi, quel cozzare di mammelle, non è più com'era quando anch'io avevo seni da donna. Intanto la figlia è una bigotta insopportabile, con la verità in tasca, di quelli che parlano sempre d'amore e di Dio, però è un Dio che fa rima con io, e molti di questi credenti sospetti, di questi maniaci, nascondono la propria mediocrità, soprattutto morale, dietro questo essere, il più potente dell'universo, da sbattere in faccia alla madre per umiliarla, per significarle che si è trovata un protettore più forte di tutti, che lei, cioè la madre, è una formica davanti a Dio, cioè davanti a lei che lo rappresenta. Iris la detesta e la detestiamo senza sforzo anche noi. Noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al La nonna, cioè Iris, appena saputo che Melina, figlia di Alice e sua nipote, ragazza di grande bellezza, si fa mantenere dai vecchi. Iris dice: «Ma sei sicura che non sia un pettegolezzo?» E Alice: «Non sono il tipo di donna cui si racconta un pettegolezzo.» Sottotesto: «Tu invece sì.» «Sì, e non mi è mai dispiaciuto. I pettegolezzi sono un umile esercizio narrativo, le ancelle della letteratura, il naturale prodotto dell'umana curiosità.» Iris, parlando della figlia: «Sai perché la sua forma di comunicazione favorita è la preghiera? Perché non prevede interlocutori.» Alice, la religiosissima, è felice solo quando crede di avere la conferma dell'indegnità altrui e della madre specialmente. «Ed è comparsa sul suo viso una smorfia che conosco bene. Il sorriso malinconico e presuntuoso di chi si aspetta di essere delusa come milioni di altre volte e quando accade ne prova una sorta di acre soddisfazione.» Col fatto della vendita della casa, Iris la punisce, l'antipatica Alice. Vendendo la casa, le ha fatto anche uno scherzetto e ci fantastica sopra, pregusta quando sarà morta. E le dispiace solo che non potrà godersi la faccia di Alice. «Mia figlia capirà, o forse no. E a quel punto potrà misurare quanto è profondo il suo attaccamento alle cose terrene. Se si farà prendere da un attacco d'ira e mi maledirà davanti a un notaio, vorrà dire che avevo ragione io. Dio è un bene rifugio per chi non sa affrontare in povertà la fatica di una vita che continua ben oltre la giovinezza. Si capirà allora la verità della sua vocazione, in quel momento esatto, davanti al mio corpo freddo e inanimato. Peccato che non sarò presente, con tutte le mie facoltà accese dalla solennità del momento.» Questo libro nasce da un grande dolore vissuto dall'autrice. Iris è un Relier al contrario. Relier è un vecchio ingiusto che, presumendo di sé e dell'amore che le figlie gli portano, è questo vecchio vanitoso che dà retta solo a chi lo adula, si spoglia del potere e dei beni per darli alle figlie e credendo che sarà più amato per questo, e dissereda l'unica che lo ama. Iris invece è una vecchia regina che ha letto Lear e fa l'opposto. Si vende la casa per assicurarsi quel che le resta del giorno e non dà il becco di un quattrino alla sua discendenza. Anzi, nemmeno avverte la nipote e la figlia. Le priva dell'unica eredità. Perché la bellezza di questo personaggio, che è Iris, mica è uno stinco di santo pure lei. È una vecchia egoista, è una vecchia avara. Eppure stiamo con lei, per la sua tremenda sincerità, per la levità profonda con cui si butta in questo amore. Più adolescente di Melina, suo nipote. Ecco, siamo dalla sua parte per questo rapporto così semplice, la cosa più difficile che avrà con Carlo, che deve morire. Carlo è più fortunato di Ivan Ilitch. Qualcuno porta con sé la sua ultima vita e la sua morte, senza compiangerlo, in piena naturalezza. È l'unica cosa che possa riscattarti gloriosamente, è l'unica beffa possibile alla morte. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te e per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me. Ah, questo è l'incontro fra Iris e la signora Lamberti, la moglie di Carlo, così ben calata nel suo ruolo di infermiera da farlo ammalare con le sue cure. Mentre lui è in fuga d'amore con Iris, anche stando lì con lei, che fa finta di niente e si rifiuta di capire che suo marito ha un amante e che solo questa donna lo lega alla vita. E quindi la moglie di Carlo dice a Iris: «Sa, i malati sono come i bambini, fanno certi capricci e io non so dirgli di no». Lei è Micaela, si prende cura di lui, ma è Carmen quella che gli uomini desiderano, Carmen. Come nell'opera di Bizet, come nella novella di Mérimée, Micaela era la ragazza che piaceva alla madre di Don José. Ma Don José è stregato da Carmen. Baciandola dice: «Tu es un diable». E Carmen gli risponde: «Oui». Improvvisamente le dispiace davvero di essere così vecchia. È come se non potesse più accedere alla sua identità. Dovrebbe essere lei, Carmen. Lo è stata. È stata bizzarra, seducente ed egoista. Una figura del desiderio. E continua la storia con Carlo. Attraversando la strada mi ha tenuto una mano sul gomito, come se volesse guidarmi. Ho avuto paura di mettermi a piangere. Sono assediata dalla commozione. Tutte le volte che Carlo sfiora una parte del mio corpo, mi si riempiono gli occhi di lacrime. E per caso Carlo incontra la figlia di Iris e si lascia scappare con lei, che l'ha trovata bella. E per Iris crolla la volta celeste. La dilatazione del sentimento quando il corpo non è più il protagonista e si va all'essenza, alla terribile essenza dell'amore. Mentre ogni volta che lei guarda Carlo la morte fa un passo indietro, ogni volta che la moglie invece va lì con le medicine, con le flebo, eccetera, invece la morte fa un passo avanti. E qui c'è una cavatina contro le mogli. Ho rivisto, nel premuroso affaccendarsi di Annalisa attorno alle spoglie mortali di Carlo, tutta l'ingorda maternità deviata delle mogli senza figli, la tonda polacca che imbocca la demenza di Antonio. Si dovrebbe vietare alle mogli di non riprodursi, alle mogli degli uomini anziani, alle mogli degli uomini malati. Volevo dirle: «Ehi, moglie, non trattarlo da neonato! Una cosa è incominciare, una cosa è finire. Quando si incomincia si ha bisogno dello sguardo amoroso della madre. Quando si finisce si ha bisogno di un po' di solitudine. Non è facile imparare la parte. Osservare l'animale adulto ben installato nella vita attiva, chino su di te con tutti i sentimenti a fior di pelle, non è di nessun aiuto. Anzi, impedisce ogni tentata epica dell'ultimo viaggio. La buona volontà dei sani genera frustrazione e noia nel declinante». Possibile che non lo capisci, moglie? E poi, visto che il tempo va, Carlo vuole andare in viaggio con lei. In viaggio di nozze, anche se potrebbe morire da un momento all'altro. E la levità che riescono ad avere fra loro, che non è mai illusione, con la morte quasi familiare appollaiata sulla spalla. E quando arrivano in albergo, lei, l'ironica, la cinica, dice: «Ho un attacco di timidezza, tipo la prima notte di nozze di una ragazza sposata per corrispondenza». Per te e per me. Il libro della Ravero non ci risparmia il dolore, ma ci fa grazia di altre cose. Ti prego, Lidia, di leggere per noi il paragrafo sulle paranoie che ha questa vecchia da sola, quando ancora non è posseduta dal pensiero amoroso, perché dopo se le scorda. Sì, perché l'amore aiuta, ti sposta l'attenzione da te, quindi anche la paura scema, no? Grande funzione dell'oggetto libidico è quello lì. Ti ami un po' meno, quindi stai meno attento ai tuoi sintomi. Ti invece, ami per te, in quanto ami e già ti ami. In quanto sei amata, come dice Carlo a un certo punto, quando lei insomma si sente intimidita dalla sua bruttezza, perché non si fida più del suo corpo, perché è una donna che è stata bella, ma a un'età in cui in genere non lo si è più o si pensa di non esserlo, Carlo le dice: il bambino non è amato perché è bello perché è amato, e questo fa scattare la sua percezione di sé. Se sei amata sei bella, quindi al diavolo le rughe. Invece le paranoie piombano su di te, tutte insieme è molto difficile reggerle, no? Al mattino, se ti svegli di notte. Questa mattina, quando ti sei svegliata, ti bruciava l'occhio sinistro. La palpebra copriva il bulbo oculare in modo asimmetrico. Hai stornato lo sguardo dalla vecchia guercia che ti fissava dallo specchio e hai afferrato con la mano destra la saponetta. Il dito mignolo non si coordinava con le altre dita. Hai aperto e chiuso la mano. Hai confrontato le dita di una mano con le dita dell'altra e, notandone l'omogeneità, hai pensato che forse anche il mignolo della mano sinistra aveva subito una paralisi. Sotto la doccia hai percepito nettamente che il condotto uditivo di entrambe le orecchie era ostruito da quello che ti è parso un corpo estraneo. Hai ipotizzato un futuro di sordità. E ti sei interrogata su quale fosse la tua disgrazia preferita, perdere la vista oppure l'udito, il resto della vita senza leggere libri o il resto della vita senza ascoltare musica. A colazione hai buttato via uno yogurt la cui data di scadenza ti pareva troppo ravvicinata. Quindi hai sospettato che nella zuccheriera qualcuno, distrattamente o con malizia, avesse sistemato un certo quantitativo di veleno per topi. Hai inumidito con la saliva la punta del polpastrello, hai sfiorato l'innocente candore di quella sostanza improvvisamente estranea, hai assaggiato. Il sapore dolce ti ha tranquillizzata, soltanto per un attimo. Al primo sorso il caffè ti è parso amaro, non naturalmente amaro come per carenza di saccarosio, amaro in modo sinistro, il tipico sapore dell'arsenico, secondo l'unica fonte di informazioni memorizzata, un vecchio poliziesco di Agatha Christie. Devo continuare? A Lidia Ravera, che già sta scendendo di corsa le scale del faro, dedico questa poesia di Marina Tsvetaeva, che le somiglia. Sono felice di vivere in modo semplice ed esemplare, come il sole, come il pendolo, come il calendario, d'essere un'anacoreta laica di snella figura, savissima, come qualsiasi creatura di Dio, di sapere, lo spirito è mio alleato, lo spirito è mia guida, d'entrare senza annunziarmi, come un raggio e come uno sguardo, di vivere così come scrivo, in modo esemplare e succinto, come Dio comanda e come gli amici non prescrivono. La guardiana del faro. Charmanca charlatan. Ho 25 anni, abito in un piccolo paese dove ci si conosce tutti e si sanno i fatti di tutti. Lui, sposato, mi ha corteggiata con delicatezza per più di un anno, poi il primo rapporto. Mi sono data a lui a San Valentino, ero sicura dei suoi sentimenti. Poi lui cambia, diventa sfuggente, mi dice di mettermi con qualcuno, così possiamo continuare meglio di prima. Io non l'ho fatto, non voglio mettere su casa con uno di cui non mi importa, visto che mi importa solo di lui. Poi mi chiama solo per scopare, sento dire che è in crisi con la moglie, ma non per me, per una sua ex amante, che lui però rivede e che gli fa le telefonate mute. Sincera. Avevo un fidanzato adorabile, ma ho incontrato lui e l'ho lasciato. Ci mettiamo insieme, Lui però diventa distratto, per fartela breve, dopo un po' si sposa e nasce quasi subito una bambina. Dolore indicibile, finché lui mi ricerca, facciamo l'amore come mai prima. Mi dice che forse mi ama, che il rapporto con la moglie va male, ma in ogni discorso affiorano progetti con lei. Lo lascio, sto da cani. Non riesco a desiderare nessun altro uomo. Con lui però non posso stare. Mi fa troppo soffrire. Ma senza di lui è la morte. Alberta. Ma in questa stagione ci piovono sul tavolo lettere di ragazze in pena per uno sposato. Tutte insieme queste lettere, come stormi di uccelli. E risponde insieme a Sincera e ad Alberta. Lo sposato va preso com'è. Sposato. Qualche volta ama davvero. Ma per lo più è un animale annoiato che cerca un puntello, una fuga col ritorno. Ha un sì che ha detto ma gli pesa ed è l'unica sicurezza della sua vita. Lo sposato è un animale affamato che deve risolvere i suoi problemi, non quelli della vittima. È come un leone con una gazzella, è ben contento di sbranarla. L'amante di Sincera fa il delicato per un anno, gioca al fidanzamento, il divertimento è tutto suo e poi chiama solo per scopare. Che certo non è poco, però in lui lascia la soddisfazione canagliesca del colpo riuscito, ma a te lascia una devastazione senza riscatto. L'amante di Alberta addirittura si sposa mentre sta con lei, poi la riprende, ma dopo torna dalla moglie e le chiude la porta in faccia e intanto la sua vita erotica, esausta, riprende una nuova vitalità. Tu hai cercato di metterti in salvo, ma le sue zampe di leone, leone non per coraggio, per brutalità, raspano alla tua porta. Se torni con lui, devi sapere che torni con uno sposato, cioè con uno che ha l'alibi eterno per pugnalarti di fronte e alle spalle. Non può fare soffrire sua moglie, lui, però può fare soffrire te. Sposato anche prima di esserlo, già traditore e bugiardo. Ti fa lasciare il tuo ragazzo e dopo si sposa. Adesso sì che viene il bello, ne tradisce due alla volta, le tieni in sospeso. Ma a che servono questi discorsi? Può una mia parola eliminare il batticuore quando senti la sua voce di bugiardo oppure l'amore fatto dove capita dopo una lite? Vi farete calpestare in eterno. Ivano Ciccarelli, sei un uomo veramente spiritoso. Ti ringrazio molto per aver reagito al mio rimprovero per il tuo racconto chilometrico dicendo: non ho ricordo di un rimprovero così gradito, tanto da sentirmi accarezzato il cuore. Ecco, anche a me nulla mi scalda e mi accarezza come sentirmi capita, specialmente quando faccio la cattiva. Grazie Ivano, di cuore. Vorrei leggere parte della lettera di Tania, che è molto interessante perché parla dell'orco, parla del picchiatore, del torturatore, figura ahimè così tristemente diffusa oggi, e ricorda che il picchiatore, il ricattatore, l'uomo cattivo, l'orco, non sempre è armato di mazza e sembra Hulk. No, certe volte invece è un grande commediante, un intrigante, insinuante. E questo è il caso di un orco che è riuscito ad insinuarsi nella sua famiglia e ad isolarla, avendola in suo totale potere. Ho conosciuto l'orco che avevo 22 anni, ma non era verde, viscido e puzzolente e bavoso. No, si era travestito da principe azzurro. Bello, modi garbati, regalava mazzi di rose rosse. Ed era furbo. Non ci volle molto perché capissi che dietro le sue belle maniere montava come un mare in tempesta la sua gelosia. Ne era sempre più travolto e lo ero anche io. Iniziò col togliermi gli amici, ma soprattutto da subito, non invitato, come una serpe, entrò dentro alla mia casa. Allora abitavo coi miei e capì subito l'anello debole, mio padre. Si presentò come un povero orfanello bisognoso d'amore e da quel momento si piazzò sempre in mezzo fra me e i miei genitori. Non potevo più far niente da sola. Non potevo uscire, andare all'università. Diventava sempre più cattivo. Avevo paura. Collezionava armi e aveva sempre le pistole a portata di mano. Ma io ero sola. Mio padre piangeva per lui. Non l'ho mai visto piangere per me. Ecco la sua forza. Ero sola. Provai a lasciarlo mille volte. Ogni volta tornavo a casa e ci trovavo lui e mio padre insieme in lacrime. È chiaro, no? La stronza ero io. Ed ecco il loro gioco, con cui ti controllano per anni di tortura. Tu sei colpevole, e quindi tu la punizione te la meriti. Io so cosa significa essere travolta da quel vortice pazzesco senza senso ti trascina sempre più giù, perché tanto sei da sola. Ma finì. Una sera mi fece l'ennesima scenata. Mi prese per un braccio e mi guardò con quegli occhi da pazzo. Quegli occhi di un uomo che perde la testa, che diventa peggio di una bestia, in quel momento è sempre uguale. In tutti gli uomini che si trasformano in mostri. Lo riconosci per sempre, non lo scordi più. In quegli occhi ho visto, in quel momento, passare la mia vita e la mia morte. È stata un'epifania. Ho capito. Dovevo salvarmi. Non risposi. Mi liberai. Afferrai un paio di cose, montai in macchina e fuggii. Era l'unico modo. Lui era già di certo a casa mia a piangere sulla spalla di mio padre. Via da tutti, verso la mia vita. Poi sono tornata, ho perso molte cose, i miei amici. Mio padre per 6 mesi non mi ha rivolto la parola, ma mi ero salvata. Lui, l'orco, ogni tanto riemerge da lontano. So che segue ancora i miei spostamenti. Si tiene a distanza di sicurezza, per fortuna. Ma anche ora che ho 30 anni, continuo a sognarlo spesso e ogni giorno rivedo quegli occhi. E poi c'è una fervida incitazione alle donne a salvarsi. Voglio urlare. Amiche, di fronte all'orco, ognuno di noi è sola. Non abbiate paura di avere paura. Non temete di apparire ridicole. Non temete di scappare. È inutile chiedere aiuto. Soltanto noi possiamo salvarci. Se mi avessero detto che i miei meravigliosi genitori mi avrebbero voltato le spalle, mai e poi mai ci avrei creduto. Al mio orco non perdonerò mai di aver strappato la loro fiducia dalle mie mani, dal mio cuore, per sempre. Questa sì è riuscita a ucciderla, ma io vivo. E finché vivo grido, non aspettate, salvatevi. Firmato, una principessa scampata al principe azzurro. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.